24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 6:33 minuti. Siete svegli allora, cari italiani? Siete pronti? Siete caldi? Siamo qui fino alle 9 con 24 mattino. La nostra Miriam Lucchetti in redazione. E il nostro alpino, lo schieramento in regia, e il consiglio che ci proviene dall'alto, dal nostro presidente del consiglio. But please relax. Come sempre, apriamo il nostro bar, dove la bella Nicole è pronta a offrire il caffè, come sempre. Caffè offerto anche oggi da Nicole Minetti, tanto ormai avrà il vitalizio, pare di capire. Voglio salutare Vladimir Luxuria, buongiorno. Buongiorno. Ben svegliata, ben ritrovata, eccoci qua. Voglio salutare anche Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, buongiorno e ben svegliato. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Eccoci, allora voglio subito, come si suol dire, entrare con i piedi nel piatto e farvi sentire la vicenda di Elsa Fornero, la nuova puntata. Ma che le stanno facendo i giornalisti? Mannaggia, ha fatto un comunicato parlando di persecuzione, non so, denuncerà qualcuno per stalking, aggressività, insistenza. È andata una iena, Filippo Roma, per delle domande. E vabbè, si sentirà solo l'audio della iena, Filippo Roma, sentiamolo. Ministro, buongiorno. Che l'ha inseguita in tutti i modi. Siamo qui per risolvere un grave problema che riguarda proprio il suo ministero, il Ministero del Lavoro. Scusi, perché mi impedisce? Voglio fare una domanda al Ministro. È una domanda che riguarda i diritti dei lavoratori, Ministro. Niente. È un problema che riguarda i diritti dei lavoratori che lavorano all'ISFOL, l'ente di ricerca del suo Ministero. Diritti che sono stati calpestati. È un problema di interesse pubblico, Ministro. Ci faccia fare questa domanda, se poi risponde, se no, ma non immaginate, mi faccia. Immaginate la Fornero che cerca vie d'uscita, gente che blocca, poi compaiono le persone più assurde che bloccano, si frappongono col corpo con Filippo Roma, dice: lei chi è? Perché non mi fa passare? No, la domanda è una domanda innocua. Ministro, è una domanda innocua, niente, non vogliamo niente, creare confusione, è soltanto una domanda semplice, innocua, che riguarda i diritti dei lavoratori. Se hai sentito solo in sottofondo la Fornero, andiamo ai suoi, cioè. Niente, se ne va. Ma perché? Se ne va il ministro. Se ne va. Ci passa tutti questi impedimenti fisici. Ministro, non se ne vada. Pur di non rispondere alla nostra domanda. Non se n'è andata. Ministro, se n'è andata. Letteralmente allora, scappata poco prima che iniziasse. E Filippo Roma racconta, poi è scappata. Allora, Vladimir Luxuria, c'è da dire che io, per esempio, oggi Filippo Facci su Libero dice: ha fatto bene. Cioè, basta, diciamolo chiaramente, gli italiani vogliono solo le loro verità, cioè le verità che loro condividono. Se uno non propone le loro verità, quello è un uomo morto, allora viene perseguitato, eccetera. La Fornero dice delle cose scomode. In questo caso cos'era una persecuzione? Cioè, che deve fare questa donna? Tutte le conferenze dove va, viene assaltata, viene... Ha fatto bene o no il ministro ad andarsene? Ma no che non ha fatto bene. Cioè, un ministro, una persona che diventa ministro, una persona che diventa una persona che ha un'immagine pubblica così forte, non può pensare che non venga intervistata, che non le vengano poste delle domande. Cioè, già una volta aveva chiesto ai giornalisti di andare via. Sì. E anche questa volta con la iena, insomma, ha perso un'occasione per rendersi un attimino più simpatica, perché poi il problema della Fornero è anche di avere questo atteggiamento un po'... schizzinoso, direi un po' chiusi. Ecco, un po' così. Infatti là, io so che lei lo sa che ha questo problema, tant'è che insomma io sono venuto a sapere che lei sta cercando di testimonial d'eccezione per fare una campagna sull'apprendistato. No. Ha chiesto a Fiorello di poter mettere Cioè... proprio perché lei sa che ha un problema di immagine, soprattutto con i giovani. È una professoressa, ma perché deve risultare simpatica? È una professoressa, dice le cose. Non so, Maurizio Tortorella, deve il compito del ministro è anche di diventare simpatica, di diventare gradevole all'opinione pubblica? No, su questo non sono d'accordo. Sono abbastanza d'accordo invece sul fatto che un ministro non può sottrarsi a domande. Nella fattispecie, tra l'altro, mi pare che la iena in questione non si fosse posta con la solita consueta aggressività delle iene. Mi sembrava tutto sommato che la domanda non fosse così disastrosa, che il tema un problema non fosse concreto. Del tutto peregrino, e che la maniera di porgere il il problema non fosse così. Sì, c'è da dire che è un rapporto che è degenerato ultimamente, no? Quello tra il ministro Fornero e i giornalisti, evidentemente. Sì, quando ha detto devono uscire, perché altrimenti altrimenti devo pesare ogni singola parola. Però è interessante questa cosa, vorrei approfondirla con Vladimir Luxuria, del fatto che sta reclutando qualcuno per... Cosa vuol dire sono venuto a sapere che sta reclutando qualcuno? Ma no, cioè io diciamo che il Ministero del Lavoro sta cercando dei volti che possono riscuotere simpatia, quindi che piacciono ai giovani, per poter lanciare una campagna sull'apprendistato. Uno è Fiorello, sì. Ma quello che voglio dire, diamo la possibilità alle persone di poter pensare se sono d'accordo o meno con quello che dice il ministro attraverso anche delle interviste. Mm. Poi è antipatico il fatto che una persona non risponda alle domande di chi ti fa delle interviste. Insomma, già abbiamo Grillo, che è uno che non ama tanto così essere intervistato, il contraddittorio. Ah, Fornero come Grillo. Fornero qui. Come Grillo. Fornero come... Invece no, sentite questo, ieri... Questo non sono d'accordo. No, Fornero, Fornero come Grillo. Maurizio Tortorella è uno dei più accaniti avversari, nel senso giornalistici, di Beppe Grillo, anzi Kim Jong-il, chiamiamolo con... Com'è, inavvicinabile Grillo, no? Inavvicinabile. Vabbè, però lui ha detto, l'altra volta l'ho visto a Ballarò, ha detto che tra l'altro non si può candidare perché ha vari carichi pendenti e quindi niente. Ma sentite cosa ha detto il vice direttore di Repubblica. Ieri hanno ospitato Rosi Bindi per un'intervista lì a Repubblica.it. Sentite cosa dice Massimo Giannini di Rosi Bindi. Abbiamo, le dico subito, tante domande, perché come si dice in un linguaggio giovanile, comunque Rosi Bindi spacca, quindi spacca nel senso che attira grande attenzione. Rosi Bindi spacca, Vladimir Luxuria, tutto avrei sarebbe... Rosi Bindi spacca! Ma come Rosi Bindi spacca? Ma è il simbolo della rottamazione, secondo Renzi, secondo... Rosi Bindi spacca! Avete capito, no? Cioè uno c'ha Rosi Bindi e tam le domande! Via, una dietro l'altra, non lo so. No, forse voleva dire che Rosi Bindi, non lo so, forse qualcuno rimane a sentire, a vedere una trasmissione se c'è Rosi Bindi, non lo so. Ci sono tante domande, detto, spacca, no? Rosi Bindi, pensa se avesse detto Rosi Bindi rompe, cioè ormai cambierà completamente il linguaggio dei giornalisti, fra un po' uno usa altri linguaggi. No, ecco. No, Rosi Bindi spacca, non lo so. Tra l'altro, a proposito di questo, seriamente, oggi Tortorella, sul Sole 24 Ore c'è un sondaggio sulle primarie, sondaggio della LUISS, Bersani 48%, dunque sarebbe vicino al primo turno, alla vittoria al primo turno, Renzi 37%, Vendola 10%, questi i primi tre candidati. È uno scenario ipotizzabile secondo te? Mi sembra del tutto credibile, anche perché l'apparato del partito, che è il partito, voglio dire, è sempre, ha comunque, anche se è cambiato nel frattempo, nel tempo, resta comunque un partito abbastanza organizzato, soprattutto in certe aree del paese. Sicuramente si muove per Bersani, la strada di Renzi è tutta in salita, Vendola arriva come terzo incomodo da fuori, tra l'altro perché appunto sono primarie di coalizione evidentemente. Pensavo Vendola potesse raggiungere risultati superiori. È lui che dice vincerò, addirittura sarò la grande sorpresa, viene Vendola, accreditato. Vendola secondo me potrebbe essere una sorpresa sicuramente superiore al 10%. Al 10%. Qui, non so, Vladimir Luxuria, che è stata nel Parlamento con lo schieramento di Vendola, no? 10% pare Vladimir Vendola, non di più, almeno da questo sondaggio. È lui che dice io vinco, come vinco? C'è un elemento che sfugge al sondaggio, secondo me, cioè? Ed è il problema della doppia fila che ci sarà. Perché io non lo sottovaluterei il fatto che ci vuole almeno un quarto d'ora per ogni persona che poi andrà a votare per iscriversi, perché ci saranno delle lunghe file. Per cui suppongo che dai sondaggi sfugga il fatto che saranno favoriti più i giovani. Cioè gente che si stanca e se ne va. Cioè gente sì, che si stanca. Secondo me sì. E da questa cosa, secondo me, i più favoriti sono soprattutto Renzi e poi anche Vendola. Cioè da questa da questi problemi che ci saranno, secondo me, quando si andrà a votare alle primarie, il più svantaggiato sarà Bersani, cioè, a mio avviso. Problemi tecnici. Mentre di là, nel centrodestra, ma ragazzi, ma adesso io non è che lo voglio dire, Maurizio, ma sembra un disastro, ma cosa sta succedendo? Non sembra, no, è un disastro. Ma un giorno si fanno, un giorno, pare che secondo Repubblica sia avvenuto questo, ieri Berlusconi avrebbe detto ad Alfano: Angelino, ma lascia stare questa follia delle primarie, fai una bella convention e chiudiamola così. E Alfano che gli dice: ma che dobbiamo fare, presidente? Usciamo fuori e dire abbiamo scherzato? Ma che sta succedendo nel centrodestra, Maurizio? Beh, è una cupia di soldi abbastanza disastrosa, no? Cioè, togliamo l'avverbio, assolutamente disastrosa, non si capisce nulla, non si ha nessuna direzione precisa, manca la bussola, manca tutto, direi. Sì, è questo, cioè anche sta diventando, ma ci sono addirittura dei personaggi, non so, Stracquadagno, ve lo ricordate? Adesso dice Berlusconi non è più lui, non lo riconosco. Isabella Bertolini, una che è sempre stata con Berlusconi: Berlusconi è come Schettino, ha detto, ma come è un partito che ormai è in sgretolamento totale. L'uscita di Pecorella per me è stata estremamente significativa, perché Pecorella, oltre a essere uno degli uomini più intelligenti che ho conosciuto, è uno dei padri fondatori di Forza Italia a suo tempo. Sono segnali abbastanza inequivocabili. Ma anche sulla Lombardia, voglio dire, hanno un candidato che potenzialmente Albertini forse è l'unico che potrebbe reggere in questo momento per notorietà, per il buon risultato che ha avuto come sindaco a suo tempo a Milano. E pare voglia andarsene, perché dice non si capisce più nulla. Sì, ma non riescono a trovare un accordo neanche sul suo nome. Se sono in queste condizioni, non sembra un disastro come No, è un disastro. Però facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi voglio rientrare, perché oggi Panorama, che ho qui davanti a me, ha una copertina esclusiva che titola così: le relazioni pericolose del presidente e sono le relazioni di Rosario Crocetta e la mafia. Ma come, lui che ha fatto tutta la campagna antimafia? Ebbene, Panorama oggi mette in prima pagina questo articolo che farà discutere. Tutta questa meritocrazia che bisogna sfoggiare nella vita, ma io rimango perplessa, perché l'umanità è fatta di persone normali. Ci sono gli onesti lavoratori, ma non sono scime. Praticamente la maggior parte delle persone dovrebbero soccombere o fare una vita di merda a 800 euro al mese, perché ormai devo prevalere solo il migliore, solo il migliore. Allora tutto il resto della popolazione che deve fare? Un popolo di schiavi, lo eliminiamo? C'è qualcosa che non mi quadra. Io dico questo: a quando il partito delle casalinghe di Voghera? Forse andremo molto meglio in Italia. Si crede alla giustezza dell'adozione da parte di una coppia omosessuale, ma perché poi si deve andare a dire? Ci sono tanti bambini che anche in una coppia, tra virgolette, normale, vedono il peggio di due persone, ma possono anche vederlo in una coppia omosessuale. Il peggio di due persone può essere ovunque. Mi dà fastidio questo andare a cercare il lato negativo nella coppia tradizionale per giustificare l'adozione da parte di coppie omosessuali. Milan, facciamo qualcosa di buono. Adesso che finisce il mandato di Napolitano, invitiamolo ad andare in pensione, così da esempio. Lavoratori! 21 caporedattori. Ma capisci perché la gente si incazza? Questa la vogliamo mettere come mantra: i 21 caporedattori sono alla Regione Sicilia. Quanti caporedattori avete a Panorama? Ieri l'ho chiesto a Luca Dini, direttore di Vanity Fair, ne hanno 4. Voi, Maurizio, quanti ce ne sono più o meno? Qualcuno di più. Qualcuno più di 4? Non di... 21 caporedattori alla Regione Sicilia, tutti caporedattori. A proposito di Regione Sicilia, oggi voi fate un'accusa pesantissima, mettendo Rosario Crocetta a dire i rapporti con i boss di Rosario Crocetta. Ma come? È proprio colui che ha fatto tutta la campagna antimafia e voi attaccate così? Ma allora, intanto non sono boss, sono però esponenti di Cosa Nostra nell'area di Gela. e sono rapporti testimoniati da atti giudiziari. Una premessa: si tratta in alcuni casi di pentiti che parlano, e sui pentiti tu sai che chi parla, ma anche Panorama in generale, ha un atteggiamento estremamente prudente e scettico, oltre che cioè sono pentiti che dicono Rosario Crocetta ha avuto relazione con queste persone. C'è un pentito che si chiama Trubia, che nel 2007 ha raccontato in interrogatorio di fronte al magistrato che Rosario Crocetta aveva preso i voti della mafia negli anni precedenti da sindaco di Gela. C'è un altro pentito che invece si chiama Celona, che ha avuto con lui sicuramente relazioni lunghe e confermate nel tempo da più fonti. C'è un atto giudiziario che ne parla, un'informativa inviata alla procura di Caltanissetta che dice che questo Celona ha avuto una lunga relazione con lui, amichevole, e lo ha sostenuto pesantemente nelle elezioni del 2002. E come risponde Crocetta? Immagino Crocetta sdegnato. Nei confronti del secondo, che poi si è pentito quasi subito dopo, dice di averlo fatto pentire lui, in realtà. Sì. Anche se risulta da sentenza che in realtà questo Celona si sia pentito perché è costretto a farlo anche da numerosi omicidi familiari, un po' come accadde a Buscetta qualche anno prima. Sono accuse pesantissime. Allora, Vladimir Luxuria non le ha lette ovviamente questa cosa di Panorama, che però è oggi in edicola. Ma è credibile questa idea di Rosario Crocetta, rapporti, uno che ha fatto tutta la campagna elettorale di io sono il sindaco antimafia, ho messo in galera da sindaco di Gela la moglie del boss Emanuello, e adesso le accuse sono molto pesanti, che arrivano alcuni pentiti. La prima cosa che farò sarà andare a comprare Panorama, perché voglio leggere quello che hanno scritto. Io conosco personalmente Rosario Crocetta, perché quando fui candidata nel 2008 in Sicilia lui mi dette una grossa mano per la mia campagna elettorale, anche se poi, come si sa, non ce l'ho fatta. E la cosa che mi colpiva di più è che la mattina Rosario Crocetta mi chiamava per chiedermi se pioveva o se c'era il sole, e per sapere come si doveva vestire, perché avevamo ormai un rapporto di confidenza e quindi ci sentivamo al telefono. Io lì per lì non capivo il motivo per cui lo chiedeva a me. Quando gliel'ho chiesto, perché lui ha le finestre murate, perché per le sue disposizioni, perché lui è una minaccia a morte dalla mafia, non può avere le finestre, diciamo, riaperte, perché dalle finestre potrebbe arrivare delle minacce alla sua vita. Quindi una persona che ha fatto le gare di appalti con la presenza dei carabinieri, una persona che riesce a licenziare la moglie di un capo mafia, una persona che mi ha detto che i mafiosi, quando ci sono le manifestazioni antimafia, dicono bravi, bravi, fanno bene a farlo, è giusto farle, ma che quando vai a minare i soldi, le gare d'appalto, cioè le cose su cui si basa la mafia, allora diventi un nemico giurato, anzi il comunista, cioè, ha detto un capo boss mafioso. Io non ci credo, saranno pure pentiti, quello che va, ma io non credo alle parole di queste persone. È questo che stride, Maurizio, per chiudere, è questo che stride, perché la figura di Crocetta è anche la figura... Ovviamente la figura di antimafia. Certo, è anche minacciata, cioè sotto scorta, sì, è vero che ha questa vita... È vita blindatissima, effettivamente. L'associazione mafiosa dell'area cercò di ucciderlo, si dice, durante la processione dell'Immacolata. Quello che dico io, laicamente, è che nei confronti di altri soggetti l'insieme delle carte appunto giudiziarie che abbiamo raccolto avrebbero aperto non è meno un'inchiesta, ecco. Questo nei confronti di Crocetta non è avvenuto, sicuramente, ecco, e questo tengo a sottolinearlo, non c'è. Non ci sono inchieste, almeno per il momento non si sa. Comunque facciamo così, vediamo un po' anche come verrà accolto, ecco, dall'opinione pubblica. Noi oggi avremo tra l'altro alle 8:15 Leo Luca Orlando, ospite sindaco di Palermo. Gli chiederò conto anche di questa inchiesta di Panorama, che trovate in esclusiva il numero di Panorama, le relazioni pericolose del presidente, vale a dire Rosario Crocetta e la mafia. Grazie a Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Vladimir Luxuria, che come Rosy Bindi quindi spacca, e si sa. Abbiamo, le dico subito, tante domande, perché come si dice in un linguaggio giovanile, comunque Rosy Bindi spacca.

Allora, se c'è un partito forse più in crisi degli altri, se si può dire, se si può fare questa classifica, forse questo partito è l'Italia dei Valori. Saluto Leoluca Orlando, che è il sindaco di Palermo, ma è un uomo ancora all'interno del partito organico. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Lei anche ieri hanno lasciato tre parlamentari in Liguria, pare che ci sia un po' una diaspora di consiglieri regionali. Lei lo lascia l'Italia dei Valori oppure si sente ancora a fianco di Pietro? No, ma io credo che il tema non sia lasciare o non lasciare l'Italia dei Valori. Chiedersi che sta succedendo oggi nella politica italiana. Partiti siano in crisi profonda, tutti i partiti in crisi profonda. Io ricordo sempre l'esperienza mia personale, il mio risultato elettorale. Io sono stato eletto sindaco di Palermo con il 74% dei consensi, e tanto l'11%, e l'intera coalizione che mi sosteneva il 14%. Io sono stato eletto sindaco con 60% in più della coalizione che mi sosteneva. Sì, ma infatti che la conferma che i partiti sono in crisi. I partiti sono in crisi? No, questo potrebbe lei dire, potrebbe dire Pizzarotti a Parma o Tosi a Verona, che sono stati eletti al di là e a prescindere dal partito. Il tema è questo, ed è molto semplice. L'Italia dei Valori in questi anni è stato l'unico partito in Parlamento che è stato un Sindaco, sindaco, c'è sindaco, però c'è il suo cellulare che un po' fa le bizze. Capiamo, ma qualche parola non la capiamo. Le posso chiedere o di stare fermo nel momento in cui la sentiamo? No, ma la crisi dei partiti, questo è il segnale. Però che cosa dovrebbe fare secondo lei Di Pietro? Cioè, secondo lei il modello di Pietro, questo modello Italia dei Valori è un'esperienza da archiviare, dunque? Ma intanto io credo che i partiti, diciamo, fortemente personalizzati siano superati. Occorre recuperare una dimensione di partiti che abbiano una apertura ai mondi vitali, e soprattutto che tutti i partiti si diano una regola di comportamento. Voglio dire che si attua una norma della Costituzione che stabilisce il metodo democratico alla vita dei partiti. In questi 60 anni di vita costituzionale non si è mai applicata, non si è mai attuata, non si è mai approvata una legge sul metodo democratico. Occorre poi che tutti insieme ci rendiamo conto che oggi l'Italia dei Valori paga in qualche modo la conseguenza di essere stata opposizione forte anche al governo Monti, e oggi sostanzialmente il Partito Democratico, che dovrebbe essere il nostro grande alleato, che noi vogliamo che sia il nostro grande alleato per costruire una coalizione alternativa, vive l'ambiguità di avere sostenuto il governo Monti e adesso vuole prendere le distanze. Sì, o forse anche avete fatto l'opposizione a Berlusconi, ma Berlusconi non c'è più, cioè vi hanno tolto un argomento. C'è anche questo, certamente. Si dia una ragione che Berlusconi non c'è più. È un po' come quando è caduto il muro di Berlino e entra in crisi la Democrazia Cristiana, che aveva vissuto in qualche modo con un nemico che non c'è più. È un tema serio che il 15 dicembre affronteremo tutti assieme, perché il 15 dicembre dobbiamo in qualche modo, in questa assemblea che abbiamo indetto, dobbiamo chiederci la ragione della nostra presenza nella politica italiana, cosa fare per poter essere adeguati a ciò che oggi chiede l'Italia. Senta, tra l'altro è incredibile che tutto questo sia stato accelerato da un'inchiesta giornalistica, no? Quella di Report. Le chiedo questo: lei è convinto della trasparenza dei conti del partito l'Italia dei Valori? Ma guardi, io credo che il Tono di Pietro l'ha detto in tutte le forme possibili e immaginabili, inchieste, processi, sentenze, non hanno accettato questa trasparenza. Non c'è dubbio che in quella trasmissione Antonio Di Pietro è apparso in qualche modo imbarazzato, è apparso in difficoltà, probabilmente perché si è trovato ad affrontare un terreno al quale non era abituato, quello di essere oggetto di critiche, non sapesse lui quello che criticava, insomma. Ma detto questo, rimane il tema politico. Il tema politico è questo: noi siamo fortemente il massimo di unità, sono stato indicato di tenere contatti col PD, con Ser, con Bersani, con Vendola. Abbiamo invitato i nostri aderenti a partecipare alle primarie, anche se noi l'ufficio di presidenza riteniamo opportuno non partecipare, proprio perché è un segnale che attendiamo il candidato premier che verrà indicato dalle primarie per parlare di programmi. Sì. Quindi, c'è una, c'è una possibilità anche di riavvicinamento. So che dopo le primarie voi vi incontrerete con chi sarà il vincitore delle primarie. Con molta forza di costruire il massimo di unità possibile, lo chiediamo sull'agenda, che non c'è l'agenda. Le interessa il movimento arancione, cosiddetto quello che De Magistris dovrebbe lanciare come movimento dei sindaci? Può essere un'alternativa ai partiti? Arancione, così come io ho ipotizzato la rete 2018, facendo riferimento alla mia vecchia esperienza, uscirà un finestre con la Melampo Editore, la quale appunto io dico che probabilmente bisogna andare al triangolo gli attuali partiti, tutti gli attuali partiti, non c'è dubbio che questi fermenti sono fermenti positivi, o noi riusciamo a interpretare questi fermenti, quando dico noi, non dico Italia dei Valori, dico l'intero estremo dei partiti, o diversamente è chiaro che prevarrà l'astensione, un segnale all'arma molto forte, il 53% dei siciliani non è andato a votare, e se aggiungiamo a questo il 18% che è morto per il movimento di Grillo e il 4% anche cioè di chi non ha votato, abbiamo c'è il grande astensionismo. Devo dirle, sindaco, ripeto, il cellulare purtroppo non è che ci aiuta tantissimo, ci sono tante parole che perdiamo del suo discorso. No, ma si capisce, si intuiscono, diciamo, l'80% delle parole. Senta, le devo chiedere questo: lei ha letto per caso, visto che è mattina presto, già Panorama oggi, ha avuto occasione di vederlo, sa di cosa parla, perché mette in prima pagina Rosario Crocetta con un titolo esclusivo, Le relazioni pericolose del presidente, cioè un'inchiesta con parole di pentiti che ridisegnano o disegnano un'immagine ben diversa dal Crocetta che conosciamo, cioè icona antimafia, cioè si parla di un Rosario Crocetta che secondo alcuni pentiti è da in realtà è stato a contatto in passato con diversi esponenti vicini a clan mafiosi. Lei crede a questa immagine che potrebbe incrinare l'idea del Crocetta antimafioso, oppure come la definirebbe? Fa possibile fango? Molto forte a Crocetta e avendo detto con molta chiarezza che la coalizione che lo sosteneva, la continuità rispetto al sistema di potere, mi voglio astenere da ogni valutazione su questo aspetto. Insisto, considero la elezione di Crocetta, la sua coalizione, la continuità rispetto al vecchio sistema di potere, poi gli altri aspetti li vorrei esaminare con più precisione. Quindi comunque lei è sempre stato oppositore, però vi siete visti con Crocetta due giorni fa, addirittura qualcuno ha ipotizzato un avvicinamento politico. Crocetta, lui è il presidente della regione, faccio il sindaco della città capoluogo di regione, perché avere rapporti istituzionali sia un fatto assolutamente doveroso, ho rapporti istituzionali e tengo ad avere rapporti istituzionali con il governo Monti, la cui agenda non condivido. Quindi l'ha incontrato per forza, ecco, visto? L'ho incontrato a Palazzo d'Orleano, la sede della presidenza della regione, la sede istituzionale. Tra l'altro, ma lei metterebbe almeno la mano sul fuoco su Crocetta? Cioè, voglio dire, è un uomo che ha fatto della lotta alla mafia, un uomo scortato, un uomo... Cioè, lei è un uomo che ha fatto la lotta alla mafia, il suo impegno politico, mi auguro che questo sia esattamente quello che... tutti dicono, ma il tema non è il suo impegno di lotta alla mafia, il tema è che lui si è prestato ad essere espressione di una coalizione che è la continuità rispetto alla peggiore politica siciliana degli ultimi 10 anni, e si sia prestato a questo. Si riuscirà a liberarsi? Sarà un uomo di rottura rispetto al mondo che l'ha espresso, o sarà in continuità? Beh, questo lo vedremo nei prossimi giorni. Ma perché lei dice continuità? Lui ha detto, anzi, sfiderò con ogni delibera l'assemblea regionale. Non sto parlando della persona, sto parlando della coalizione con l'espresso. Lui è espresso in Sicilia dagli stessi partiti che hanno sostenuto in passato, Lombardo e Cuffaro prima. E quindi in questo ha preso i voti da quelli che hanno votato Lombardo. Le forze politiche che hanno negli ultimi 10 anni governato con il presidente Lombardo e con il presidente Cuffaro. Va bene, sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie veramente a Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo e anche espressione dell'Italia dei Valori, per parlare di quella che è un po' la crisi di questo partito. Ci fermiamo dopo la pubblicità del meteo, 800 24 00 24. Se volete intervenire, torniamo a parlare delle province, perché abbiamo letto che l'iter del decreto che vuole accorpare le province, voluto dal ministro Patrone Griffi, voluto dal governo, dal ministro Cancellieri. Ricordate quella conferenza alla quale si sono presentati con una mappa dell'Italia con le province tutte ridisegnate? Ebbene, questo decreto, come tutti i decreti, ci vogliono 60 giorni per convertirlo in Parlamento, ma insomma, questo decreto verrà convertito? Pare che ci siano delle forze politiche che vogliono affossarlo, o meglio, forze politiche trasversali, parlamentari, che dicono meglio affossarlo. E come, cosa vuol dire meglio affossarlo? Vuol dire che non se ne farà niente, deve essere convertito entro Natale, ce la faranno, chi lo sa. Torniamo a parlare dell'annoso tema delle province italiane. Sapete che il governo ha fatto un decreto per accorparne un po', e quindi 35 verrebbero cancellate. Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ma come tutti i decreti vanno convertiti in Parlamento. E qui sorgono i problemi. Almeno i giornali raccontano da qualche giorno che c'è una serie di parlamentari abbastanza bipartisan che in maniera chiara vogliono in qualche modo, per esempio, come ha detto l'ex ministro Rotondi, affossare questo decreto. Sarebbe meglio, questo ha detto Rotondi, affossare questo decreto, farlo decadere. Voglio salutare due senatori, uno dei quali è anche presidente della provincia di Avellino. Intanto saluto il senatore Egidio Digilio. Buongiorno, senatore. No, non c'è. Saluto, ho sbagliato a leggere io, il senatore Cosimo Sibilia. Buongiorno, senatore, eccoci qua. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Del Popolo della Libertà, nonché per l'appunto presidente della provincia di Avellino. Provincia che, senatore, andrebbe ad, no, non si può dire scomparire, ad essere accorpata a quella di Benevento. Guardi, il problema sta proprio qui. Cioè, la provincia di Avellino ha entrambi i requisiti stabiliti dal governo: estensione territoriale, che era di 2005 e ne ha 2008 di chilometri quadrati, e popolazione 450.000 circa a fronte dei 350.000 richiesti. Il paradosso sta proprio qua. Accorpano la provincia di Benevento a quella di Avellino e qualcuno pensa che la titolarità del comune capoluogo debba passare da Avellino a Benevento. Non scompare la provincia, ma perderebbe la titolarità del comune capoluogo a vantaggio di Benevento, che vanterebbe poche migliaia di abitanti, 4-5.000 abitanti in più rispetto alla città capoluogo. È uno sfregio. Sibilia, è uno sfregio incredibile, cioè non è sopportabile questa cosa. No, guardi, io prima di tutto ci tengo a sottolineare che non sono abituato a fare guerre tra poveri. Io vorrei che la questione arrivasse ad una soluzione, perché c'è una illogicità e una irrazionalità in questo decreto legge che sono lampanti proprio. Tanto che voi, mi scusi Presidente, intanto saluto il senatore Egidio Digilio che ci ha raggiunto. Senatore, buongiorno. Buongiorno senatore Digilio. E c'è insieme al senatore Sibilia, che è presidente anche della provincia di Avellino. Presidente Sibilia, lei avete fatto anche ricorso al TAR, e il TAR si pronuncerà su questo, no? Abbiamo fatto appunto il ricorso al TAR, e il TAR ieri ha deciso, da quello che mi viene riferito dai nostri legali, che si pronuncerà a stretto giro, ma comunque prima delle elezioni politiche, su questo provvedimento che, ripeto, è illogico e irrazionale. Quindi c'è questo vizio di costituzionalità che noi abbiamo sollevato, e quindi il TAR da questo punto di vista si ha pronuncerà. Mettiamola in un altro modo, cioè se unissero le due province, ma con capoluogo Avellino, a lei starebbe bene? No, a me sarebbe bene rimanere così come siamo. Le faccio una domanda. Ma se abbiamo dei parametri, e questi parametri sono stati ampiamente superati, cioè parametri che la provincia di Avellino ha, lei mi deve spiegare per quale motivo, se la provincia di Avellino ha questi parametri, deve rinunciare poi alla titolarità del comune. Ma io capoluogo, infatti le ho detto, se venisse mantenuto il capoluogo Avellino, prendendo insieme anche Benevento. Ma così si sbaglia l'obiettivo, perché il mio obiettivo non è quello di affossare Benevento o di fare altro, il mio obiettivo è quello di avere la provincia di Avellino, ripeto, che ha i requisiti e i parametri, a non essere penalizzati. Ho capito, ma che le fanno schifo i cittadini di Benevento, che non può accoglierli nella sua... Io sono un frequentatore della città e della provincia di Benevento, da questo punto di vista non esiste nessun problema, è solo che perdendo la titolarità del comune capoluogo noi abbiamo la difficoltà dell'ubicazione degli uffici periferici dello Stato, mi riferisco a prefettura, questura, comando carabinieri, provveditorato, INPS, INAIL, lei si rende conto che cosa significa andare per una provincia Benevento. Andare fino a Benevento, no, ma ho capito, però voglio dire, nell'era digitale fa un po' sorridere che si debba prendere la macchina e andare a Benevento per fare, cioè, sognerei un paese, ma forse mi sono svegliato, ho mangiato pesante ieri, sognerei un paese in cui, so, per fare un passaporto uno fa tutto a livello digitale o con comunicazioni senza dover andare in questura, in prefettura, ma... Senta, la provincia di Avellino sa quanti comuni ha? Quanti? 119 comuni, molti dei quali, quelli dell'Alta Irpinia, Altissima Irpinia, distano circa un'ora e mezza dal comune capoluogo. Sì. Questi comuni, infatti si togliesse la necessità di andare al comune capoluogo, sfoltendo la burocrazia, e ognuno se ne sta nel suo comune e va a lavorare dove deve lavorare. Ma a questo punto, se lei mi fa questo ragionamento, io le devo dire che, per esempio, quando c'è stata la grandissima nevicata di quest'ultima, di quest'ultimo inverno, noi abbiamo avuto nei nostri 1.100 chilometri di strada la possibilità, attraverso la provincia, di rendere percorribile tutta la rete stradale. Vede, sono tutte questioni che poi si renderanno ancora più critiche e note quando non ci sarà più l'ente. Ma guardi, questo adesso mi faccia sentire il senatore Di Giglio, questa è un'opposizione che sempre si fa, la questione della pulizia delle strade, che è una delle competenze delle province, è come a dire che senza le province le nostre strade andrebbero a catafascio. Allora io dico, se uno Stato ha bisogno di una provincia per mantenere le strade, allora questo Stato può chiudere baracca e burattini e ce ne andiamo tutti da un'altra parte. Comunque, senatore Di Giglio, eccoci qua a lei. Lei, anche lei mi sembra che è un po' dell'idea questo decreto. Cosa bisogna farlo? Bisogna affossarlo, bisogna cambiarlo, non bisogna convertirlo, è il modo più sbrigativo, ma forse per ottenere lo scopo, no? No, guardi, io non voglio passare per quello che vuole affondare qualche nave di passaggio, detto in modo metaforico. Il problema non è quello, il concetto fondamentale è un altro. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale nel 2008 come PDL perché volevamo abolire tutte le province. Allora oggi perché, a distanza di qualche anno, vogliamo abolire soltanto qualche piccola provincia e quindi vogliamo penalizzare le piccole province? Il concetto di abbassare le spese siamo perfettamente d'accordo, ma perché abolire le piccole province? Per risparmiare, allora, qualcosa. Cioè, il ministro ha detto che sarebbe stato meno risparmio togliendole tutte. Chiedo scusa, non è. Allora, per amministrare uno Stato, per amministrare una concezione dello Stato, non bisogna andare solo e soltanto sul risparmio. Io faccio un esempio lampante: eliminiamole tutte le province. Allora sono perfettamente d'accordo. Ma se dobbiamo eliminare, io faccio la battaglia per la mia provincia, eliminata, che potrebbe essere Matera. Sì. Io vivo in Basilicata. Ecco, lei della Basilicata, perfetto. In Basilicata, dove praticamente quando si vanno a fare determinate riforme, determinate questioni, bisogna vedere qual è l'aspetto anche del territorio. Noi abbiamo una regione Basilicata, circa 600.000 abitanti, due province. Eliminiamo una provincia. Sì. Potrebbe stare bene. Che poi eliminiamo, accorpiamo le due province in una. Esatto, eliminiamo una provincia, diciamo, accorpiamo una provincia. Che senso ha? No, che senso ha tenere una provincia ed una regione? Ma cominciamo a farne una. Che senso ha tenere regione e due province, allora? Forse il concetto l'ho detto prima, bisogna eliminarle tutte le province. Allora facciamo un decreto e eliminiamo tutte le province. Ma lei è convinto che non è convinto che nessuno si sarebbe opposto di fronte all'eliminiamo tutte le province? L'opposizione ci sarà sempre, ma lei è convinto che facciamo opporre soltanto le piccole province o dove ci sono meno deputati? Le sembra corretto che... Allora c'è una battaglia di chi è più potente e chi meno potente. Chi è più potente riesce a difendere la propria provincia. C'è una battaglia di giustizia, perché quando poi un governo elimina tutte le province così come si vuole, nessuno ha niente da dire. Quando invece un governo vuole eliminare le piccole province per non avere problemi nelle grandi province, allora mi sembra anche giusto che scatti Ma non è che vuole eliminare le piccole province, dice si fanno province più grosse mettendone insieme due o tre o in alcuni casi quattro. Ma il concetto di partenza era eliminarle le province, andarla a rimodulare. Allora le faccio, no, se mi fa continuare nell'esempio, io mi troverò in Basilicata con una provincia di 10.000 km quadrati, la più grande d'Italia, non ho un'autostrada per raggiungere tutti i comuni o parte dei comuni, non ho una linea ferroviaria ad alta velocità. Ma questo che c'entra con l'istituzione provincia? Se mi fa finire il concetto, c'entra perché dal capoluogo Potenza ad arrivare in un paese ci vogliono 2 ore e mezza. Non è come diceva lei, ma allora bisogna prendere la macchina. No, non è quello il concetto. Perché io farei anche il discorso inverso per eliminare le spese. Siccome le province sono radicate sul territorio e quindi raggiungono ogni piccolo paese quando c'è la neve, quando c'è pioggia, eccetera, eccetera, eccetera. E lo faranno le regioni, le regioni. Mi fa completare. Perché non eliminiamo le regioni? Che una ma guardi che però con ma forse per me, se vogliamo metterla sulla spesa, allora, le regioni sono più spendaccione rispetto alle province. Con questo discorso non si fa mai nulla, senatore, prima le regioni oppure eliminiamole tutte o nessuna, qualunque cosa uno tenta di fare non si riesce a fare. Allora, noi dobbiamo riformare lo Stato, no? Andiamo a riformare le province, andiamo a riformare i comuni. Ci sono comuni, la mia regione c'ha 131 comuni, di cui il 90% sono al di sotto dei 5.000 abitanti. Consortiamo i comuni anche, i servizi dei comuni. Ho capito, allora, ma è uno splendido programma elettorale, ma poi quando si tenta di farlo, non si riesce a fare niente per le opposizioni, in questo caso dei parlamentari, di alcuni, dei politici locali, dei campanili, come li ha citati lei. Allora, il taglio delle province, l'accorpamento che fa fatica a procedere come decreto da convertire al Parlamento. Con noi ci sono due senatori, il senatore Cosimo Sibilia, che è anche presidente della provincia di Avellino, e il senatore Gidio Di Giglio. Sentirei due ascoltatori. Stefano da Roma, buongiorno. Stefano. Buongiorno, un saluto a tutti i partecipanti. Dica. Dunque, io vorrei sapere una cosa, insomma, io sono uno di quei pensionati che ha subito il taglio della spending review e delle leggi Fornero. Come mai, quando si deve fare un taglio che riguarda cose pubbliche, tipo la scuola, la sanità, questi settori, si taglia dall'oggi al domani tranquillamente, senza nessun problema sul futuro di giovani, migliori? E quando si tratta di tagliare province e non comprare bombardieri da 135 milioni l'uno... Stefano, anche il decreto l'hanno fatto in mezza giornata. E il problema è che i decreti, questa è la democrazia, vanno poi convertiti in legge in Parlamento. Sì, ma quello che non si capisce è perché i soldi per queste cose, cioè si continuano a trovare per le province, invece per cose molto molto più importanti per la vita dei cittadini, soldi non si trovino. Va bene. Cioè, cominciamo a tagliare i privilegi, armamenti, cose che non sono fondamentali per la vita di un paese. Lei Stefano dice, quando invece si tratta di toccare cose come le province, che riguardano anche la politica, si fa fatica. Si scopre un po' l'acqua calda, se mi permette, però il dato di fatto amaro un po' è questo. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno. Sono Andrea da Milano, volevo solo ringraziare il cielo che il senatore della Basilicata non sia un medico, perché se ha la possibilità di salvare solo 8 dita su 10, ma dice no, o tutte 10 o niente, allora le amputiamo tutte 10. Cioè il discorso... Il paragone non è proprio... Insomma, se da qualche parte bisogna iniziare a risparmiare, perché allora dire tutto o niente? Ecco, questo è più capibile che la stessa cosa che dico io, a parte il paragone col medico, però lei dice almeno iniziamo a tagliarne qualcuna, insomma. Certo, no, se c'è la possibilità di risparmiare da qualche parte, perché intanto non iniziare? Va bene, grazie Andrea. Paolo da Lucca, buongiorno Paolo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. dottor Milan, io volevo fare un discorso più, un pochino più tecnico. Al di là che io sarei per l'abolimento di tutte le province, nessuna esclusa, fuorché le aree metropolitane perché hanno un senso sì. suo particolare, io faccio parte di una commissione elettorale, come in tutta Italia ci sono, e sono nominate, diciamo, dal prefetto, hanno nomina prefettizia. Ora cosa succede? Succede che nella nostra provincia, che io sono di Lucca, però poi appartenerei a Livorno come Pisa sì. e Massa Carrara, praticamente dovrebbero una commissione elettorale cosa fa? Analizza tutti i dati di chi deve votare. E quindi praticamente ci deve essere due persone, che presidente e vicepresidente di nomina prefettizia. No, sì, ma non mi spieghi la cronistoria della commissione elettorale. E praticamente dovrebbero venire da Livorno, farsi magari 200-300 chilometri per andare a Massa. Cioè, lei sta dicendo che se si eliminano le province c'è questo problema sulle commissioni elettorali. Non hanno pensato ai problemi pratici, perché poi praticamente le liste elettorali vanno guardate, perché sennò ho capito, ma Paolo, è chiaro che una cosa che cambia comporterà delle modifiche, ma non credo che questo sia il problema. Non so, senatore Sibilia, il presidente della provincia di Avellino, questo che dice Paolo da Lucca, cioè la ricomposizione eventuale delle commissioni elettorali, è un problema che ci dovrebbe frenare sull'idea di rimodulare le province italiane? No, non credo che questo sia il problema più grave. Noi però, quando parliamo di risparmi, io molte volte sottolineo che noi dovremmo discutere di quello che riguarda, per esempio, i consorzi, gli enti parchi sì. e tutto il resto che diciamo veramente comporta spese. Io parlo per la mia provincia. Sì. La mia provincia è una provincia assolutamente virtuosa, una provincia che ha un avanzo di gestione di oltre 50 milioni di euro, che ha estinto tutti i mutui e quindi per l'anno prossimo non ha debiti. È una provincia che costa 1,20 euro a cittadino. Ho capito, ma se noi li togliamo questi 1,20 euro, non facciamo anche meglio? Vabbè, noi possiamo anche decidere di togliere l'€1,20 a cittadino, però dobbiamo metterci nelle condizioni che il risparmio non è solo questo. La provincia di Avellino è una provincia che come costi di consiglio provinciale e quant'altro di giunta e quant'altro ha circa 500.000 euro all'anno, cioè significa due consiglieri regionali. Sì. Cioè, veramente, ma lei, insomma, lei dica la verità, presidente, a lei la cosa proprio che non va giù è sta roba di mettere capoluogo Benevento. Questa cosa è insopportabile. Lei questa cosa proprio ce l'ha qui, come si suol dire, no? Allora, dice, fatemi tutto, ma non ditemi che Cosimo Sibilia abita in provincia di Benevento, perché io vi piglio a cazzotti. No, io abito in provincia di Avellino, eppure appunto dico scompare, un domani direi lei dovrebbe dire abito in provincia di Benevento, sta roba io abiterei in provincia di Avellino, ma nel capoluogo di Benevento, perché la provincia è come il capoluogo Benevento. Insomma, sì, certo. È vero, è vero che anche De Mita si sta muovendo per difendere la provincia di Avellino. Ha partecipato agli incontri. Abbiamo sentito quando abbiamo fatto con i parlamentari, e De Mita ha dato il suo contributo come era logico che fosse. Insomma, io credo che contributo può dare l'europarlamentare De Mita? A dire tenete duro. Andate avanti. Un contributo sicuramente di esperienza, un contributo che insomma può dare alle giovani generazioni anche parlamentari, insomma, di poter arrivare a dei risultati che non penalizzino le comunità. Insomma, io proprio in provincia ho convocato un incontro tra parlamentari, a questo incontro hanno partecipato tutti i parlamentari, tutti tranne uno, e tutti hanno cercato di dare un proprio contributo. Certo, comunque vedremo come andrà al TAR. Senatore Di Giglio, invece le chiedo questo, ecco, una cosa che non capisco è perché si dice in Basilicata non ci può essere una regione e un capoluogo, perché in Val d'Aosta è così, c'è cioè una regione e la provincia di Val d'Aosta è la Val d'Aosta. Ma guardi, la Val d'Aosta è statuto speciale. Anche lì dovremmo rivedere queste questioni per una questione di spese, no? Cioè, che senso ha oggi tenere le regioni a statuto speciale? Sì, ma è sempre, sempre il discorso togliamo altre cose, ma da qualche parte si dovrà iniziare. Io ho sentito. Capisco che il primo che deve pagare qualcosa gli dispiace un po'. Il signor Stefano dice: meno male che il senatore non è un medico. Sì. No? Io voglio fare soltanto questa battuta. Io vorrei capire, quantificare le spese della provincia di Matera. che poi le spese si riducono a pagare gli immobili, i dipendenti, bisogna pur trovare una soluzione. Le volevo dire, allora dite alla provincia di Matera che le spese le pagate voi, dice, ma da quali fondi? Non sono fondi pubblici, noi abbiamo, non so se lei ha conoscenza, abbiamo il più grosso giacimento di petrolio d'Europa, sì, su terraferma. E beh, allora... Contribuiamo per il 15% al fabbisogno nazionale, e allora potremmo essere anche autodeterminanti a ricavarne le spese, sì, e non pesare su nessun tipo di comunità. Ma ho capito, ma non c'è, è cosa... quello il concetto. No, ma c'è cosa c'entra? No, non capisco sempre, io però la devo fermare perché sennò sforo. Dico, non capisco, sì, mai cosa c'entra questo con l'istituzione provincia. Ma guardate che non mi fermo qui, vi reinvito, ve lo prometto, seguiamo questo iter. Grazie a voi due, grazie a tutta la redazione per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani alle 6:30.